in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, ben ritrovati. Domenica scorsa non ci siamo sentiti, in un primo momento io non ci sarei stata comunque perché avevo un impegno fuori Milano, ma poi come sapete c'è stato uno sciopero che ha impedito al Sole 24 Ore di andare in edicola per qualche giorno, tra questi giorni c'era anche domenica, quindi sono molto felice, avevo già nostalgia di questo appuntamento. E allora cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che oggi ha un titolo abbastanza conforme con quello degli altri giornali, perché questa vicenda delle nomine che avete sentito anche nel GR viene data appunto con grande risalto da tutti. Quindi il titolo principale del Sole 24 Ore è Profumo, Alessandro Profumo, ex AD di Unicredit, a Leonardo, guiderà quindi Leonardo Finmeccanica. E poi l'altra novità, che è il cambio al vertice delle Poste, con Delfante che appunto sostituisce il precedente amministratore delegato. Ci sono molte polemiche su queste nomine, che sono chiaramente politiche, e l'analisi di Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore, è: se la governance la fanno i governi. Vi segnalo anche dalla prima pagina del Sole 24 Ore un approfondimento sui cosiddetti LEA, i livelli di assistenza che determinano quello che passa il sistema sanitario nazionale. Si chiamano appunto, l'acronimo è LEA, che sta per livelli essenziali di assistenza. Ci sono dopo 15 anni è stato aggiornato questo elenco delle prestazioni garantite. Un approfondimento lo trovate a pagina 5, anche con intervista al ministro della Sanità Lorenzin. Non mancano le polemiche, perché ci sono alcune patologie che restano scoperte, soprattutto alcune regole per garantire l'assistenza gratuita, che poco hanno a che fare col reddito e che quindi appunto non vengono viste sempre come giuste o efficienti. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche un richiamo alla questione dei voucher. Sapete che il governo li ha aboliti con un decreto legge, era uno strumento introdotto molti anni fa e poi diciamo corretto, rinnovato dal Jobs Act. Quelli acquistati fino al 17 marzo, quindi venerdì scorso, due giorni fa, in forza di questo decreto legge che li ha aboliti, sono validi e potranno essere usati per tutto il 2017, ma appunto adesso non si possono più comprare. I voucher, sapete, sono quei buoni da 10 euro, 7,5 vanno al lavoratore, 2,5 vanno all'INPS per pagare lavori che dovrebbero essere sempre saltuari. Poi vedremo magari un approfondimento su chi contesta questa abolizione. La lettera al risparmiatore, consueto appuntamento della domenica, firmato da Vittorio Carlini, poi trovate tutto a pagina 24, è dedicato a Moncler, il titolo, l'azienda di abbigliamento che all'inizio era focalizzata solo sui piumini, adesso produce e vende praticamente di tutto. Il titolo: le sfide sui mercati di Australia e Medio Oriente, di tutto nel senso di abbigliamento e accessori. La prima pagina della Repubblica, manager, una rivoluzione a metà. E naturalmente il riferimento è alle nomine di cui abbiamo appena parlato, e siccome c'è un'importante intervista a Del Rio, ministro delle infrastrutture, che dice: un errore il voto anti PM, parla di molte cose, poi la vedremo, perché come ho detto mi sembra un'intervista importante e interessante. Ma sui voucher vi leggo la maca di Michele Serra. Il voucher brucia sul rogo di purificazione che la sinistra vindice ha eretto per celebrare la cacciata di Renzi. Non era Giordano Bruno, era un pezzetto di carta che molta gente usava per legalizzare i piccoli lavori e non frodare l'INPS, e altra gente per aggirare le leggi sul lavoro. Per punire il cattivo uso fatto dai disonesti, il voucher è stato incenerito tutto intero, compresa la sua metà utile e onesta. Ora in parecchi stanno frugando nella cenere per cercare di capire come faranno di qui in poi a pagare in chiaro prestazioni che solo un pazzo o un sadico può considerare passibili di pratiche burocratiche, di qualunque natura esse siano. Esempio concreto: una piccola azienda agricola ha bisogno, per una sola giornata all'anno, di 8-10 lavoranti per fare il raccolto. Anche prima del famigerato Jobs Act poteva farlo con i voucher. Ognuno vale 10 euro, paga oraria laddove l'agricoltura non è in mano a caporali e schiavisti, 7,5 vanno al lavorante, 2,5 all'INPS. Morti i voucher, si tornerà a pagare in nero, come nelle gloriose tradizioni nazionali, a meno che la CGIL metta a disposizione gratis un ufficio che si occupi delle pratiche di assunzioni di 10 persone per una sola giornata cada uno. La burocrazia è nemica del lavoro quanto lo sfruttamento. Oh, naturalmente sulle prime pagine trovate ampi riferimenti e poi all'interno la cronaca su quello che è successo ieri all'aeroporto di Orly, ma come spesso faccio con questi fatti di cronaca, in realtà appunto l'avete sentito nel GR e sicuramente gli approfondimenti, gli aggiornamenti li avremo poi nel corso della giornata. Quella che trovate sui giornali è appunto la cronaca di ieri. In edicola con la Repubblica, l'Espresso, come ogni domenica da quando lo dirige Tommaso Cerno, cioè dall'agosto scorso, e questa settimana la copertina è dedicata all'Europa ed è un disegno molto che colpisce molto quello della copertina, perché è la bandiera dell'Unione Europea, la bandiera blu con tutte le stelle gialle in evidenza, e però è disegnata come se fosse una specie di buco nero, quindi le stelle stanno per cadere in questo buco. Così finisce l'Europa, sapete, l'Unione Europea, nata come comunità europea, compie 60 anni e l'Espresso ha intervistato Valéry Giscard d'Estaing, che è un politico francese, uno dei padri della comunità europea, che avverte: dobbiamo ripartire da 9 paesi altrimenti crolla tutto, cioè i paesi fondatori, le proposte, le idee e le riforme da fare prima che vincano i populismi. Il Corriere della Sera, via le nomine scontro, quindi come vi dicevo anche il Corriere titola su queste nomine. A proposito di populismi, un articolo di Beppe Severgnini, la prima frenata populista, in riferimento a quello che è successo in Olanda, si temeva un'affermazione ancora più ampia di Geert Wilders, che è appunto di questo partito di destra che, per semplificare, si definisce populista. Sappiamo in realtà che Geert Wilders comunque non ha vinto, non governerà, ma sarà sicuramente all'opposizione, ma ha preso più voti rispetto alla tornata politica precedente, quindi chiamarla frenata non so se sia del tutto corretto, anche perché adesso il problema in Olanda è trovare una coalizione di governo. In ogni caso, anche qui vedremo gli sviluppi dei prossimi giorni. Il titolo però, quello subito sotto la testata del Corriere della Sera, quello che, come ogni tanto vi dico, si chiama in gergo palchettone, è legato a una inchiesta di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, che ricorderete sicuramente 10 anni fa scrissero questo libro La Casta, che divenne poi quasi un neologismo per indicare la casta politica sostanzialmente. Tornano un po' su questi temi. Il titolo dell'inchiesta, che poi trovate a pagina 6 e 7, sicuramente da Mani sul Volante, è Province e vitalizi, i tagli mancati, così resistono i costi della politica. La Stampa, nomine impronta di Renzi, questo è un altro retroscena, però abbastanza, che trovate sostanzialmente su tutti i giornali, cioè che benché queste nomine, abbiamo visto, sono del governo, molte le riconducono direttamente all'ex premier Renzi e non all'attuale premier Gentiloni. Azzerato il vertice di Poste, ora potrebbe slittare la privatizzazione. Il Messaggero, ecco le nomine, l'ultimo duello. E vi segnalo però dal Messaggero in prima pagina un approfondimento su Alitalia. Sapete che è stato presentato l'ennesimo piano per il risanamento di quella che era una volta una vera e propria compagnia di bandiera, ora è di proprietà, con socio di maggioranza è Etihad, continua a essere fortemente in crisi, ha bisogno di un nuovo piano industriale. Si è dimesso l'ex presidente, si è dimesso il presidente Luca Cordero di Montezemolo, è arrivato un altro presidente, l'amministratore legato però Graham Ball è sempre lo stesso, e vediamo che il Messaggero approfondisce questo tema, anche se novità ce ne saranno nella prossima settimana, E perché scrive il Messaggero in prima pagina: per Roma il prezzo più alto, personale degli uffici ridotto del 51%. Un'altra notizia interessante che trovate sul Messaggero in prima pagina è su questa proposta di legge presentata a Montecitorio per sostenere la genitorialità. In che senso? Che potrebbe rendere obbligatorio per 15 giorni il congedo parentale, un po' come succede in alcuni paesi scandinavi, al momento in Italia è di soli 2 giorni. L'Avvenire è un titolo diverso perché, anche se altri giornali ne parlano in prima pagina, l'Avvenire proprio apre sul G20 che si è tenuto in Germania, il G20 con la partecipazione di tutti i ministri delle finanze, quindi un G20 appunto finanziario che si è tenuto a Baden-Baden. Sapete che ci sono stati, almeno anche qui, molto a retroscena, molto però era abbastanza palese sia dai toni che dagli sguardi che dalle dichiarazioni, c'è stato uno scontro tra Donald Trump e Angela Merkel, la cancelliera della Germania, soprattutto su due temi: uno economico, che è il protezionismo, e anzi tre temi: il protezionismo, la tutela dell'ambiente, perché Donald Trump è da sempre contesta le teorie sul riscaldamento globale. E poi c'è il grande tema dell'immigrazione, perché se da noi in Europa abbiamo soprattutto l'immigrazione dall'Africa, Trump, come sappiamo, è alle prese con quella soprattutto dal Messico. Il Fatto Quotidiano naturalmente parla a sua volta delle nomine con questo simpatico titolo: il signor Renzi non è più nessuno, ma nomina i manager di Stato. L'ex premier ed ex segretario PD impone i suoi uomini a Gentiloni. Questa è la teoria del Fatto Quotidiano. Invece Libero ha un titolo diverso: Berlusconi punta sui nonni. Perché questo titolo? Perché il nuovo programma lanciato da Silvio Berlusconi in vista delle prossime elezioni politiche, dove lui vorrebbe ricandidarsi, in questo momento sapete non è possibile per via della legge Severino, ma poiché la legge Severino non è stata applicata a Augusto Minzolini, adesso, come ha dichiarato uno degli avvocati di Berlusconi nei giorni scorsi, Ghedini, si aspetta una sentenza della Corte Europea e Berlusconi potrebbe essere di nuovo candidabile e quindi candidato. Sfida generazionale al Movimento 5 Stelle, che tira soprattutto fra i giovani, si legge sulla prima pagina di Libero. Silvio lancia un programma per riportare gli anziani al voto e annuncia una proposta sull'aliquota unica fiscale per trascinare la Lega dalla sua parte, perché sapete che in tema di politica fiscale quello dell'aliquota unica è uno dei temi nel programma economico della Lega di Matteo Salvini. Ci fermiamo però un attimo per una pausa, sentiremo anche qualche aggiornamento sul meteo e ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Buongiorno, ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e ringrazio gli ascoltatori che già così presto al mattino hanno mandato messaggi al 349-238-6666, sms o whatsapp. Mancava la prima pagina del giornale, che ha un titolo diverso, non sulle nomine, anche se ci sono anche le nomine. Il titolo principale è un'inchiesta di Fabrizio De Feo e Stefano Zurlo, anche questa un po' da mani sul volante. Il titolo: le spese pazze dei giudici. Comprate poltrone da 7.000 euro, lingotti e frigobar. Il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, è una reggia. L'Unità, una sorta di pensiero laterale, importante per carità, perché riguarda la legge 194, quella che introdotta e anche poi sottoposta a referendum, che è quella sull'aborto. Nelle ultime settimane e mesi abbiamo sentito come la percentuale dei medici obiettori, cioè che non praticano l'aborto, si rifiutano di praticare l'aborto negli ospedali pubblici, sono in fortissimo aumento, arriva al 90%, e quindi la legge dello Stato non può essere di fatto rispettata. E il titolo quindi dell'Unità: non torniamo al buio, in difesa della 194. Questa è sostanzialmente appunto la recensione di questo libro, che poi trovate a pagina 7. La fotonotizia invece è dedicata all'immigrazione, c'è un barcone di quelli che ormai purtroppo siamo abituati a vedere, pieno di immigrati, quasi tutti uomini in questo caso. Trump li considera privilegiati. Il riferimento è alla frase che ha detto Donald Trump: immigration is a privilege, cioè che appunto sarebbe un privilegio che viene concesso da alcuni paesi a chi emigra verso quei paesi. Il manifesto Profumo e Balocchi, quindi il riferimento anche qui, vedete il titolo principale su queste famose nomine, mentre La Verità, un titolo ancora diverso, ha un'inchiesta di Giacomo Amadori che torna sulla questione di Banca Etruria. Sapete, la banca di cui è stato presidente il padre della ex ministro per le riforme costituzionali Maria Elena Boschi. Il fratello della Boschi mi obbligò ad aprire un conto al faccendiere, il faccendiere Flavio Carboni, secondo appunto questa funzionaria di Banca Etruria, ha fatto queste rivelazioni. Ma passiamo alle pagine interne dei giornali, torniamo sulle 24 ore, perché come vi dicevo, come forse sapete, settimana scorsa ci sono stati alcuni giorni di sciopero, uno mercoledì, quindi giovedì il Sole 24 Ore non era in edicola, e il giovedì c'è Casa 24, che quindi è uscito oggi. Casa 24 è il settimanale del Sole 24 Ore dedicato all'immobiliare. Il titolo principale è un articolo di Paola Dezza da Cannes, dove c'è in corso questa importantissima fiera, si è chiusa la più importante fiera dell'anno sull'immobiliare, che si chiama MIPIM, e da questa fiera sono venuti segnali di ottimismo, buone previsioni per tutta l'Europa ma anche per l'Italia, quindi la famosa ripresa del mercato immobiliare di cui parliamo da tempo. Sempre al Sole 24 Ore, come ogni domenica e anche come ogni sabato, l'approfondimento sport e business questa settimana è dedicata soprattutto al triathlon. Nuota, pedala, corri, che poi viene anche definita la disciplina degli Iron Man, cioè gli uomini di ferro. La disciplina appunto prevede tre sport da fare in successione: nuoto, bicicletta e corsa. E l'Iron Man in realtà poi è una particolare forma di triathlon, perché le miglia da percorrere a nuoto, in bicicletta o a piedi sono più ancora di più che nelle altre forme di triathlon. Il triathlon fa business, ci racconta Riccardo Barlam, che non so se è un Ironman, ma sicuramente è un nostro collega che, per darvi un'idea, viene da fuori Milano tutte le mattine in bicicletta, quindi bicicletta so per certo, ha anche scritto un libro sui percorsi in bicicletta. Bicicletta so per certo che la usa un po' da Ironman. Disciplina giovane che attira sempre più appassionati. In Italia, pensate, ci sono 23.000 tesserati e un giro d'affari crescente. Sempre sul Sole 24 Ore, dal dorso di Norme e Tributi, che, come direbbe Mauro Meazza, da leggere religiosamente, perché l'apertura è dedicata ai voucher in archivio senza un piano B, perché il problema è questo, che adesso il decreto legge li ha aboliti, però non c'è una proposta alternativa, e quindi, come ipotizzava con un certo pessimismo Michele Serra, l'alternativa potrebbe essere tornare semplicemente al pagamento in nero. Dal Corriere della Sera vi segnalo un articolo di Guido Santevecchi, corrispondente da Pechino del Corriere della Sera, che spiega come ci sia questo tentativo di riavvicinamento di Donald Trump alla Cina. Sapete che una delle prime mosse di Trump, quando si è insediato presidente, era stato quello di chiamare la presidente di Taiwan, che formalmente è parte della Greater China, ma un po' come Hong Kong, è sempre protagonista di tensioni indipendentiste con la Cina, e quindi era stata una mossa diplomaticamente scorretta, e quindi aveva iniziato, diciamo, col piede sbagliato Donald Trump. Adesso, secondo appunto quanto racconta Guido Santevecchi, esperti dal mondo, compresi sei Nobel, sono stati invitati a Pechino, e il tycoon è stato presentato anche come il nuovo Deng Xiaoping. Un molto, molto interessante questo, visto che oggi è il 19 marzo, la festa del papà, San Giuseppe. Ci sono molti articoli sui giornali che prendono spunto da questa festa del papà per parlare in generale di genitorialità, al maschile in particolare. L'articolo di Stefania Andreoli a pagina 25 del Corriere: quello che i papà non dicono. I figli maschi hanno sempre più bisogno di voi, ecco le parole giuste per farli sentire amati. sempre difficile dare, credo, lezioni di genitorialità, che probabilmente essere genitore è il mestiere più difficile al mondo, però insomma sicuramente ci possono essere tanti consigli e tanti anche solo di buon senso. A proposito di economia, invece, in questo caso intervista di Paola Pica a Libero Milione, che è il revisore dei conti è il primo revisore dei conti nella storia della Santa Sede, e spiega come i conti del Vaticano saranno d'ora in poi trasparenti. È naturalmente uno dei tanti cambiamenti voluti da Papa Francesco, che sappiamo proprio pochi giorni fa il suo pontificato ha compiuto 4 anni. L'intervista di Del Rio, che vi dicevo, su Repubblica, la trovate a pagina 11, di Tommaso Ciriaco, e dà veramente l'idea delle divisioni che ci sono all'interno del PD. Qui una delle domande che viene fatta a Del Rio riguarda il voto su Minzolini, che moltissimi senatori del PD hanno difeso, compreso il giuslavorista Pietro Ichino, e che continua a difendere, tra l'altro vedremo anche una sua lettera a Repubblica. E invece per Graziano Del Rio è stato un errore salvare Minzolini, la legge va rivista. Per quanto riguarda l'Italia, dice di escludere un intervento pubblico al 99%. Io questa intervista me la tengo via, perché c'è qualcosa che mi dice che in realtà l'intervento pubblico arriverà. Vi dicevo la lettera che Pietro Ichino ha mandato a Repubblica, la mia scelta al Senato, per spiegare questo voto che lui appunto ha votato contro la decadenza di Minzolini, che è indagato per una bruttissima vicenda di spese pazze con la carta di credito della RAI quando era direttore del TG1. Per la legge Severino avrebbe dovuto appunto essere decadere da senatore. In realtà con il voto del Senato questo non succederà, e Pietro Ichino, per spiegare questa scelta, che evidentemente riconosce anche lui difficile da comprendere per la maggior parte delle persone, ha scritto una lettera di, ma non lo so, saranno un centinaio di righe, e forse già questo dovrebbe far capire allo stesso Ichino quanto è difficile spiegare una scelta del genere, se poi deve appunto usare argomentazioni che, se avete voglia, trovate la lettera a pagina 25, sono quantomeno arzigogolate. Vi segnalo invece dalle pagine interne della Stampa un reportage di Lorenzo Simoncelli dal Senegal. Via dal Senegal sognando l'Europa, meglio morire in viaggio che di fame. Naturalmente vengono in mente le parole di Trump: immigration is a privilege. Ma se andiamo a vedere appunto queste persone, che tra l'altro dalla mappa dell'Africa ci fanno vedere proprio che viaggio, che odissea è quella di queste persone che scappano per esempio dalla carestia, poi c'è chi scappa proprio dalla guerra. Questo inviato della Stampa, Lorenzo Simoncelli, ha fatto il viaggio con alcuni di questi migranti in autobus insieme ai migranti che percorrono la rotta africana. Fermarci è inutile, da voi c'è la crisi, non può essere peggio di qui. Vi dicevo l'approfondimento del Messaggero su Alitalia, lo trovate a pagina 15, e poi un bollettino di guerra, le pagine della cronaca di Roma. Allora, l'apertura di una pagina è ATAC, l'azienda del trasporto locale, stretta anti evasori, impiegati via dagli uffici per controllare i tornelli, ma non potranno fare le multe. Poi, quei bus chiamati Desiderio, alle fermate attese fino a un'ora. Pensate, un'ora bisogna attendere a Roma per vedere arrivare un autobus. E poi un'altra pagina, sempre sui rifiuti, raccolta a rischio, vertice comune-regione. Quindi questi sono forse i veri problemi di Roma e non il sindaco Raggi, come avete forse sentito nei giorni scorsi, che attaccata perché pare non aver pagato un pranzo in un ristorante. In ogni caso, noi adesso ci fermiamo un attimo per una pausa sul traffico. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buona domenica. Ancora un paio di segnalazioni dalle pagine interne dei giornali, poi passiamo ai supplementi culturali. Vi ho detto della intervista di Del Rio, ministro delle infrastrutture, esponente di punta del PD, appunto ho detto che mi sembra l'ennesimo segnale di grande divisione all'interno del PD. Un altro segnale è l'intervista a Roberto Speranza, sapete, la minoranza PD, che ha intervistato da Luca Telese sulla Verità. parla soprattutto delle nomine. Renzi ha usato il compasso nomine entro 20 chilometri, questo per dire che ha scelto persone molto vicino a lui. È una pagina intera sostanzialmente di ancora di critiche a Renzi. L'ultimissima segnalazione ve la faccio dal Fatto Quotidiano, perché qui l'intervista è a Jean-Marie Colombani, che è ex direttore di Le Monde, storico direttore di Le Monde, e che parla in particolare di Marine Le Pen. In Francia Marine Le Pen può diventare presidente, questa è la tesi di Jean-Marie Colombani. Sapete che invece molti pensano che Le Pen potrebbe vincere al primo turno ma non al secondo, e in realtà è uno scenario ancora abbastanza liquido, potremmo dire, e quindi appunto secondo per esempio Jean-Marie Le Pen invece le probabilità di vincita anche al secondo turno sono molto concrete. C'è un ascoltatore che mi chiede su quale giornale consigliano come trattare con i figli maschi, e su Repubblica. Passiamo quindi ai supplementi culturali. Cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e cominciamo come sempre dal Breviario di Gianfranco Ravasi. Si intitola oggi Cattivi e parte da una citazione di Carlo Cassola. È cattiva la gente che non ha provato il dolore. Un secolo fa, il 17 marzo, nasceva a Roma Carlo Cassola, morirà poi 70 anni dopo, nel 1987. Lo scrittore noto al grande pubblico per il romanzo La ragazza di Bube, apparso nel 1960, che Luigi Comencini trasformerà in film nel 1963 con Claudia Cardinale come protagonista. Anch'io da giovane lessi quel libro basato sul dramma di Bube, che non riesce a comprendere che la vita partigiana è finita con la cessazione della guerra, e sull'amore di Mara, la sua ragazza, pronta ad attenderlo per anni poterlo solo vedere nelle brevi visite al penitenziario ove era recluso per omicidio. Da quel romanzo è estratta una frase lapidaria che va contro la convinzione di molti, pur fondata, che la sofferenza incattivisce e la persona e ne indurisce il cuore. In realtà il dolore può essere una straordinaria fiamma che scioglie il gelo dell'indifferenza, che risveglia dal sonno della ragione, che purifica dalle scorie dell'egoismo. Con un gioco di parole, i greci insegnavano che patemata sono matemata e sofferenze sono insegnamenti, e spesso il dolore è il filo più prezioso con cui è tessuta la stoffa della gioia. Ma la copertina vera e propria, l'articolo di copertina, è dedicato ai 60 anni dell'Europa. Il titolo Stati, Nazione ed Europa è di Donald Sassoon, è un testo che verrà pronunciato e che è una lectio che è stata pronunciata all'Académie Royale de Belgique, e che in previsione di questo anniversario, che in realtà accade sabato prossimo, il 25 di marzo. Dall'interno vi segnalo anche un bellissimo ricordo di Derek Walcott, il poeta caraibico che è morto questa settimana a 87 anni, di Luigi San Pietro, questo bellissimo articolo. E poi, per la settimana numero 20, sono già passate 20 settimane, il supplemento C'è qualcuno che sa leggere, per i lettori più piccoli del Sole 24 Ore, soprattutto magari non del Sole 24 Ore, ma magari figli di lettori del Sole 24 Ore, ma lettori di libri. Il titolo della copertina: per favore fate i pagliacci, non dovete avete paura dei clown, scrive Antonio Audino, anche se portano scarpe smisurate e vestiti rattoppati. Sono bimbi come voi, ma non sono mai cresciuti, fanno contorsioni strabilianti, hanno ispirato pittori come Pablo Picasso. La lettura del Corriere della Sera, il supplemento domenicale del Corriere della Sera, che invece è arrivato al numero 277, affida la copertina come ogni settimana a un artista. Questa settimana è El Cid, un artista franco-tunisino del 1981, molto colorato il suo disegno. E dall'interno vi segnalo una bellissima intervista a Roger Scruton, che è un breve saggio di antropologia filosofica. Non spaventatevi a questa definizione, parla soprattutto dei rapporti tra scienza e filosofia. Non nego la biologia al suo posto, ma non risponde alle domande fondamentali. La scienza non sa che cos'è l'uomo. Dalle pagine interne, invece, sempre dalle pagine interne della lettura, un'altra segnalazione. Parlavamo di piccoli lettori, ma ci sono anche i piccoli ascoltatori. E allora un articolo di Nicola Campogrande: ai bambini piace classica. Gli adulti sbagliano a farsi prendere dall'ansia pensando che i ragazzi siano insensibili al repertorio colto. Ci sono altre strategie da perseguire, come gli editori specializzati hanno capito. Chopin o Debussy vanno bene per i piccoli, scegliete le doti giuste e non cercate di spiegarli. Robinson, il supplemento culturale della Repubblica, che invece è arrivato al numero 16, anche questo è relativamente nuovo, e anche in questo caso tantissime pagine, qui praticamente l'intero supplemento fino a pagina 35 è dedicato all'Europa. Chiedimi che cos'è l'Europa, e ci sono molti interventi di intellettuali, economisti, filosofi che ci invitano a riflettere su in vista di questo anniversario della fondazione della Comunità Europea e le celebrazioni che si terranno il 25 marzo, il prossimo sabato. La serie Straparlando, delle interviste fatte da Antonio Gnoli, illustrate come sempre da bellissimi ritratti di Riccardo Mannelli, questa settimana è a Emanuele Severino, filosofo, e quello che in questa lunga intervista viene sintetizzata con, e anche qui c'è un legame con l'Europa, celebrare i trattati europei e chi vede nelle unità il sogno dell'Europa è encomiabile, ma l'Europa è nata vecchia, il suo destino è segnato dal destino dell'Occidente. Un zic pessimista, Severino. A proposito di anniversari, di misurazioni del tempo, molto interessante, molto divertente anche la copertina di Macro, il supplemento culturale del Messaggero. Viaggi nel tempo, passato e presente uniti a Napoli, il futuro è realtà, perché c'è appunto sapete che a Napoli si è ricostituita un po' la città della scienza, e una delle cose su cui si indaga e che credo siano affascinanti per tutti è appunto l'idea dei viaggi nel tempo. Non è un film né una fiction, ma un eccezionale esperimento di astrofisica. All'Università Federico II è stato riprodotto in laboratorio un microscopico wormhole, ovvero un tunnel capace di collegare due situazioni spazio-temporali distanti, che è più un argomento, diciamo, da fantascienza che non da scienza, però appunto gli scienziati ci stanno lavorando. Vi segnalo anche una bellissima intervista a uno scrittore francese, Emmanuel Carrère, che è a Roma per presentare il suo nuovo libro appena uscito da Adelphi, che si intitola Propizio è avere o recarsi. Non è un romanzo come i precedenti di Emmanuel Carrère, ma una raccolta di articoli e saggi. È un titolo che tra l'altro viene preso da un testo cinese, quello degli I Ching, e Emmanuel Carrère dice: oggi viviamo in un mondo simile ai romanzi di Philip Dick. A proposito di fantascienza, Philip Dick è uno dei più famosi autori di fantascienza. La rappresentazione della realtà ha cancellato la realtà stessa. Ultimissima segnalazione da Alias del Manifesto, il supplemento culturale appunto del Manifesto della Domenica. La copertina è intitolata Il trionfo delle eccentriche, perché si fa una carrellata di libri, romanzi, saggi che parlano di donne che, specie in tempi un po' lontani da noi, venivano definite eccentriche, ma forse semplicemente perché volevano essere considerate, avere lo stesso rispetto e considerazione che viene riservato agli uomini in tutti i campi. Mentre Friedrich Engels scriveva sullo schiavismo domestico e i romanzieri piegavano le loro men's women ai soliti cliché, Georg Gissing inventava nuovi ruoli per donne di troppo. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora una buona domenica da Giulia Crivelli. E un grazie a Carmelo Lauricella in regia, stavo per dimenticarmi, ma eccoci qua, e buona domenica da tutti noi.